ci sei? Oh, schedata lì. Stai telefonando, è Drumbiddu. Vabbè, sto spegnendo tutto. Digli che quel microfono è a posto quando si sveglia, quando lo sentite. Ah, sì, sarà contento Fabri. Va bene, glielo accenno dopo, dai. Ah, adesso te che ti mando un messaggio su WhatsApp. Ehi, Alete, mi chiama qua se lo prende. E che abbraccio per il... va bene Fabri. Fabri. Dimmi. Mi devi mettere a posto un Condes 4000 che ha alcuni problemi. Quando vuoi passare me lo dici e così lo prendi. Perché ma c'aveva problemi di trasmissione, se ne scendeva piano piano di watt. Adesso tutto un tratto se ne è sceso a metà di ricezione, non ho capito cosa che lei avrebbe preso, vabbè che era un po' fermo. Te lo do e me lo fai con calma. Sì, vediamo, io sono incasinato un po'. Vediamo, tra l'altro dove sta roba qua, c'ho 4-5 apparecchi di volte per mettere a posto, poi già ci sentiamo, dai. Vabbè, no, non è problema. Me lo fai con calma, non ti sto mettendo fretta. Quando vuoi me lo dici, se lo prendi e me lo sistemi, così... me lo tengo di riserva quello, capito? C'è il barchino per poter modulare, capito? Non è quello il problema, me lo fai con calma. Quando vuoi salire me lo dici e non problemi. Bravo, sto chiudendo che mi butto un po' sul letto che sono a lavare qua a fatto. Ciao a tutti, sto parlando piano perché ne fai merito, non voglio toccare la regolatura del microfono. Ciao a tutti. Ehi, ciao ciao. Ciao ciao Fabio. Emanuele, Diocesano, buon pomeriggio. Buonasera Bolzano, ben ascoltato. Sassari da questa parte, Sardegna. Purtroppo non riesco a tirarti fuori, sei RM sotto. Ho detto buonasera Bolzano da questa parte, Alessio da Sassari, in compagnia di Marco e... e Fabio Master. Poi tanto Fabrizio, ok. Avanti Bolzano. Sì, buon pomeriggio, buona domenica. Qui mi arrivi molto molto bene, mi arrivi un 8834, diciamo una radio un po' disturbata, però purtroppo ci sta. Ci sta. L'amico, l'altro amico, lo lancio il mic. Prova Fabio se riesce a arrivare, ma lì a Bolzano, prova Marco. Ti trovo aspetto Bolzano, sono basso ma insomma, così un sacchiolino ce l'è, ma se mi ascolti, ma tu go. Evidentemente non ti ascolta. L'hai sentito l'amico Fabio Bolzano? Quella mio prepinte a Bolzano. Diciamo un paio. Posso dirlo? Meglio così, meglio così. Sono contento. Allora dovresti essere, se sei vicino a Bolzano, sei a Rasulta del Selva, o di sopra o di sotto, quale sei di due paesi? Santiago 7, a volte sali a 9 qua, oscillante. Stavo dicendo che dovresti essere come paesino a Rasulta del Selva, o di sotto o di sopra, che sono gli unici paesi attaccati a Bolzano. Dopo ci sono disturbi, hai l'SSB? Sì, ce l'ho, ma non ci vado adesso, capito? Lascia perdere, modulavo in FM, già va bene lo stesso, non è quello il problema. Aspetti, manda Marco, vediamo se lo senti. Marco, lo ascolti a Emanuele da Bolzano. Brecco. Avanti. Sì, buonasera a tutti, Roberto da questa parte. No, Bolzano arriva forte, molto forte. Non so se mi copi Roberto qua, città di Sassari, avanti Bolzano. Nominativo, per favore, non ho capito. Buonasera, buon pomeriggio. Che è che ha solo modulato? Lasciate parlare, stava parlando. Ma pare tu sì? No. E vai, qua arriva a fondo scala, qualche formazione. Ma che è no? 9.25 qua. Ma io dico, stava parlando e ti metti a fare mandare la portante. Scusa Bolzano, c'è qualcuno che qua ha mandato portante, non ho capito il tuo nome, se vuoi ripetermi. Purtroppo c'è molto QSB, dai, a momenti ti ascolto, a momenti no. Nel momento che stai arrivando oltre 9 ti hanno sovramodulato, non capisco chi sia, o qualcuno che non è uscito di radio. Emanuele, da sud di Bolzano. 10 km a sud di Bolzano, Emanuele buonasera, attimo, vi do un controllino, allora. Ok, ti ringrazio, scusate gli amici di Sassari, io lo ascolto bene, vabbè, per cui non c'è problema. Sì, per me è 5-9, 5-9 il tuo segnale, la radio, appunto, te lo sto dicendo, 5, il segnale naturalmente con QSB. Ok, avanti Emanuele, ancora per Giulio da Sassari. Giulio, grazie mille. Sì, mi arrivi abbastanza forte anche con una bella radio. Purtroppo. Rilanciate me dopo. Non è forte, diciamo, oscilla tra il 5 e il 6, però purtroppo questo è propagazione che va e viene, non è stabile, quindi c'è questo alti e bassi. Ti ringrazio moltissimo. Scusate, per Emanuele, mi ascolti a me? Perfetto, adesso ti ascolto, 8-4, perfetto. Avanti Marco per Emanuele da Bolzano. K, attenzione Emanuele, se copi Marco dalla città di Sassari, cambio. Perfetto, Mato 4, molto pulita la tua radio. Eia, Fabio per Fabio, aiutino, diciamo, dai, riprendete voi, sono bene, tu qua non ho smitter, comunque arrivi pulito, non sento QRM, non sento fruscio, sembri qua in locale, ok? Vai Robè? Sì, confermo anche io, qua ottimo segnale. Grazie mille, solo che io purtroppo ho un po' di disturbi sotto e non riesco da delle volte a tirarvi fuori, perché magari mi arrivo insieme scende a 3, purtroppo oscilla un po'. Però io vi ringrazio, vi chiedo scusa dell'interruzione del QSO attivo, vi faccio una buona domenica, un salutone a tutti, momento di nuovo. Grazie a te Emanuele, sempre Giulio che ti risponde, mi ha fatto in questo passaggio, mi ha fatto anche 9+40, naturalmente con QSB da 5 a 9+40, ok, grazie a te per il piccolo QSO, ciao Emanuele, ti mando gli amici di Sassari, avanti Roberto. Allora, vediamo un pochettino, un attimino prima di andare via, volevo chiedere le tue condizioni di trasmissione Emanuele, che apparato, che potenza e che antenna? Un attimo, qua sta parlando Claudio, un attimo, ho capito, un IC7003 e quanta potenza gli saranno e che tipo di antenna Emanuele? Allora, una Ok, va benissimo, questo passaggio è un po' di QSB un po' più pronunciato, comunque c'è anche un amico qua un po' fuori Sassari, eventualmente se lo vuoi rilanciare te lo rilancio, vedrai se lo occupi e poi prosegui con i saluti, dai, ti saluto già in anticipo. Avanti Claudio da Muros per l'amico Fabio da Bolzano, qualche chilometro da Bolzano, avanti. Mi sa che è andata male, si è avvicinato tutto con l'antenna. È stato un episodio, perché collegare Bolzano non è semplice, probabilmente è una propagazione sporadica che è durata qualche minuto, perché è praticamente impossibile fare un collegamento verso Bolzano. Ci siamo riusciti, ci siamo riusciti. Chi l'ha detto che è impossibile? Ma io l'ho collegato tante volte a Bolzano, chi l'ha detto che è impossibile? Fabio chiaramente non arriva, non ha antenna, che antenna vuoi che abbia? Ok, Emanuele, mi ascolti sempre, Giulio sempre da Sassari con un'antenna autocostruita del tipo Game Master, canna da pesca, avanti ancora Emanuele. Perfetto, ma il mio 5-8 è un Santiago di 5-8 di 3-4, ascolto abbastanza bene. Ok, sì, la radio la sto tenendo bassa io e non sto mandando un grosso volume di radio. Ok, anch'io ti ascolto molto bene. Devo dire che a momenti mi fai 9.40, anche 9.50 si è arrivato, come segnale di Santiago. Ok, avanti Roberto per l'amico Emanuele. Sì. Ok, no, diciamo, è impossibile, nel senso in condizioni normali, perché siamo tutti chiusi dalle montagne, eccetera. Propagazione puoi collegare il mondo, a seconda da come si sviluppa. Direttamente è impossibile, non possiamo mai arrivarci in diretta. Ok, vediamo Fabio se ci sei ancora o se sei rimasto, dai, non ti volevamo trattenere visto che stavi andando. Se vuoi rimanere non ci sono i problemi, non esistono problemi, che tanto non è che siamo più di tanti qua. ok, ti ho ascoltato perfettamente in certi passaggi, in altri un po' meno. Mi riconfermi il rapporto di segnale così vediamo un po' se la propagazione sta durando o sta andando via. 5, 8 e 4, mi oscilla così a me qui. Ok, va benissimo. Potete sentirci, ti rilancio Marco Condor qua sempre di Sassari, vediamo un po' se adesso ti lo occupi, avanti Marco. Eia, prima era 8 il segnale, ma Robè, se tu vedi con cosa sto uscendo, con una scatolina di fiammiferi, una cosa ridicola, e l'aiutino ovviamente, se no non sei arrivato là. Mi copia ancora l'amico di, dove era, Bolzano? Interrogativo? Molto molto basso, però diciamo riesco delle volte a tirarti fuori, delle volte per... mi sta sparendo, diciamo ci ha risposto comunque. Ecco, la propagazione sì copiato, confermo. QTC per Fabio, ci sei ancora? Puoi andare sul 15? Cavadocci vedo che sta andando via. Sì. Ok Emanuele, dai, sono io che ti ringrazio da parte di tutti gli amici qua di Sassari. Stavo modulando Fabio ma in condizioni precarie come antenna, per cui non lo potrai ascoltare di sicuro. E ho sentito che stai chiudendo, grazie ancora, salutoni, alle prossime, a risentirci magari in condizioni ancora migliori di come abbiamo effettuato il collegamento oggi. Ok, grazie ancora Emanuele, ciao. Ciao Emanuele, ciao, alle prossime, ci sentiamo. Con quelli di buon tutto da Alessio. Anche da parte mia Emanuele, ben sentito, anche se per pochi minuti. Comunque abbiamo avuto il piacere di collegare un amico giù dall'altra Italia di Bolzano. Ok, speriamo in altre situazioni un po' meglio, un po' più prolungata la conversazione. Ok, chi tocca avanti? Giulia ha già parlato, c'è qualche donato qua su questo canale, mi sa che conviene ritornare in AM, cosa dite signori? Comunque oggi, oggi meno male non ci sono contagi a Sassari, e nemmeno deceduti, tutto bene, dai, meno male, sta andando bene, speriamo che continui così. Il discorso dei deceduti non ne sappiamo niente giù, perché basta che muri di cosa, per una spina del dito del piede mettono che sei coronavirus, ormai è una biliarda barufondo. Probabilmente di contagio non ce ne sono perché non hanno fatto tamponi, ne hanno fatto di meno, per cui siamo disinformati totalmente, dai, speriamo solo bene. Io sono fiducioso che finisce tutto adesso e ce ne andiamo tutti tranquilli, speriamo non esagino con questi cacchio di vincoli e di cose, di mascherine e malassorti varie. Lo so Robè, bisogna vedere. Ascolta, ma se do un po' di olio in radio, così, guarda, vado a strappare, ho aumentato la radio, vado a strappare l'FM? No, assolutamente no. Ma cos'è, 44? Sì. No, appunto, non volevo che la radio arrivasse strappata. Ero al minimo, ero a 1, guarda, quando ho parlato con l'amico di Bolzano, ero a 1, il volume a 1 appena, il Machigin. No, ma non lo toccare, in FM non c'è bisogno di toccarlo, la potenza è che devi ridurre perché sennò esce con piena potenza. Infatti per quello andiamo in AM tutti quanti e parliamo lì, dai, ossia che entri qualcuno che magari non ha l'FM. Vabbè, facciamo così, andiamo in AM allora, andiamo in AM, aggiudicato. Siamo in AM, allora qua del pilogrammo ci sono io, Roberto, c'è Giulio, c'è Marco Connor, Alessio e poi c'erano Fabio e Marco che si sono spostati un attimino, vediamo se nel frattempo è rientrato qualcuno, avanti con la buonasera. Intanto io nel frattempo aggiusto il microfono, va bene, dai, aspetta un attimo. Ah, non toccarlo Giulio, lo sono sempre a uno, come faccio io, non tocca nulla, tanto va bene sia in AM che in FM. Sì, ma avevo tolto il processore, capito? Era perché in FM il processore non le uso io. No, vabbè, io lo lascio sempre inserito. Il mando laterale che bisogna togliere, qualcuno lo tiene, dipende da cosa vuoi fare, dai. Io lo lascio tutto toccato senza toccare niente, dai. Ok, vediamo un pochettino se nel frattempo è rientrato qualcuno. Canale 10, 27075, chi vuole entrare avanti? Aspetta un attimo, il bagno gli arrivo subito, sentiamo fra poco. Che tranne radio, mi spacchi i timpani, come parli tu, mi devi distruggere i timpani, Antonello. Non so, non è colpa mia se c'è un barattino come si deve. Meglio dell'omologato già, L'omologato ti metti sotto, anzi nemmeno sotto. Ci vuoi auricolare a sentirmi. Con questo invece è il microfono che va bene. Non si alerta. Ma è troppo forte Antonello, mi dispiace dirtelo, è un bel, troppo forte. Adesso ho messo a metà. Così è molto meglio, così è più chiara. Poco fa mi stava facendo male, perché io tengo il volume degli altri, ma tu sei tipo un altoparlante attaccato alla Lecce, mamma mia. Già lo so. Ok, vai giù. Uno, ecco, questo doveva andare bene. Stavo dicendo, tu non hai sentito Giovanna che usciva meglio di lui poc'anzi in FM. E ne ho parlato prima a Giulio, adesso ti sei abbassato, va molto meglio, ma mi parli ancora alto, da quanto l'hai messo il livello microfono? A uno, sempre a uno. E se vado oltre strappa, lo so, perché ho attaccato il processore, capito? Poc'anzi l'avevo aumentato a due, quando ti ho detto la prova in FM, no? Si aumentava la radio, cioè si strappava la radio, ma ero senza il processore, ma adesso ho inserito di nuovo il processore e sono passato a 500 ohm anziché a 50, perché la mia voce va bene quando vado in FM, vado bene così. A 50, vediamo com'è. No, a 50 è adesso a 50. Se vado in FM devo mettere a 500 per la mia voce e senza processore. Prova un attimino, per curiosità, che non ti ho mai sentito, a 500 e a 50, mi fai due passaggi, dici questo è a 500 e questo è a 50. Sì, c'è una differenza di amplificazione, adesso è a 500, aspetta che mi avvicino, se no non ci arrivo. Ecco, adesso è a 50, adesso c'è meno amplificazione. No, lascia a 500. Già, si è regolato e tutto, aspetta, rimetto come era prima. Ecco qua, a 500. Sì, perché se metto così allora devo aumentare il Mikey Gain. Mikey Gain lo tengo a 1 sempre. Mi aspetta, anzi un pochino potrei ancora aumentarlo, perché io sto guardando lo smicco. Non è il contrario. Ecco, così va bene ugualmente. Ecco, adesso ho aumentato un pochino il Mikey Gain e così va bene ugualmente. Avanti. Non è al contrario, Giulio. Abbassa poco Giulio, se troppo. Ma non è al contrario, scusate. No, non è al contrario, per la mia voce l'abbiamo regolato così da qualche annetto. Aspetta, ecco, così dovrebbe essere giusto. Adesso io sto controllando lo smitter, l'oscillazione dello smitter quando parlo, per cui dovrebbe essere così. Ma ho detto, non è al contrario, a 50 ohm aumenta l'amplificazione, a 500 si abbassa, poi non lo so se il tuo è al contrario, il mio funziona così, 60. Ma io lo sto usando da anni così, è proprio con te che avevo fatto la regolazione e tu mi avevi consigliato di metterlo così a 50. Aspetta, come controllo? Non è che sto sbagliando, aspetta. Sì, a 50, così è il modo migliore, cioè l'amplificazione a 50 io. Rientrato. L'introduttore, cosa ne so? A 50, perfetto, come ti ho detto io, a 50 però senza l'amplificazione sotto. A 500 quando c'è l'amplificazione sotto il microfono, come avevamo detto, tu mi ho capito al contrario io. Vabbè, comunque lascialo così, già va bene. Buonasera a tutti, continuate. No, io quell'interruttore che c'è sotto al microfono non l'ho mai toccato, non lo so se quello influisce, questo non lo so qua. Ma quanto sei, a 50 kg o a 500? Non ho capito Giulio. A 50 sono adesso. Non è giusto allora. Sì, ma non c'è l'amplificazione sotto? Cioè, anche qua mi sembra, non sono tonto, è 40 anni che uso il MC60. L'MC60, se tu c'hai l'amplificazione inserita sotto, c'è un tasto dove va in-out, in è in amplificazione. Allora, per smorzare metti toni, metti gli ohm a 500, ok? Se invece sotto è chiuso, lo tieni a 50. Vediamo, io adesso ho spostato sotto, com'è adesso? Boh, non lo so, io devo metterlo adesso a 500? No, devi metterlo come era prima e basta, in, l'hai messo in out, in. Ho capito, adesso lo rimetto in. infatti era così, ma da anni così, non l'ho mai toccata sotto. L'hai messo in? Non ha compreso, mi sotto perché il soldato va amplificare. Lui ha escluso l'amplificazione. Ok, lascialo stare così, lascia. Già va bene così. Sempre così l'ho usato. Solo quando vado in FM lo metto a 500 il microfono e senza processore. Se no strappa così, se no la modulazione dice che è brutta. Ma chi l'ha detto? Lo stesso discorso che avevamo stamattina. Continuano a dire stronzate. È 40 anni che uso l'MC60 in FM io, Giulio. L'unica cosa che posso fare, perché è troppo forte, stacco solo il processore. Basta. Ma per la mia modulazione stacco solo il processore. L'impedenza e il microfono non lo devi mai toccare. Dicono stronzate. Ma cosa vuoi che ti dica? D'altronde? Fai un salto in FM, dai. Un salto in FM, un attimino. E provo togliendo il processore lasciando il microfono così. Avanti, compagno, sì. Sì, sì, io sono qua. Ecco, com'è? Senza il processore e il microfono è sempre così. Perfetto, perfetto, ma chi sta dicendo? Boh, io non riesco a capire. Non toccare mai niente, nulla. Stacchi solo il processore. E ti dico che puoi lasciare anche il processore attaccato. Ma non tende a strappare un par di palle, scusa il termine. Puoi staccarlo il processore e puoi lasciarlo attaccato. Che non dicano fesserie, per la fretta queste misurazioni, abbassa qui, abbassa là. Io non abbasso mai niente, non tocco mai niente e va sempre tutto bene. Quindi puoi staccarlo il processore perché la modulazione è nettamente più chiara, ma non è vero che strappa col processore attaccato, assolutamente non è vero. Io il processore non lo stacco mai, lo lascio sempre attaccato, sia AM che FM. Allora, spesso sono abituati tutti a dire coglionate, no? Perciò lasciamo perdere. Vabbè, lascia tutto come era, Giulio, lascia, non toccare niente, ripassa in AM. È così, il livello microfonico sempre a uno, non lo tocco né AM né FM. Io non tocco niente, non me frega niente, ma non tocco niente, perché io prima di entrare in radio mi ascolto, ok? E non entro a chiedere controlli a nessuno, a meno che non stia facendo dei lavori o delle prove. Se no non ho bisogno di chiedere niente a nessuno perché mi autoascolto sempre. Andiamo in AM, dai. Io ci sono in AM, dai. A posto, dai. Comunque, utilizzo del microfono su una radio che non ha i contatti diretti, cioè che non ha l'alimentazione al microfono, e cioè che si mettesse prima la batteria per poter usare quel tasto lì. Io pensavo quello qua, ecco com'era. È per quello che io quell'interruttore sotto non l'ho mai mosso. L'ho mosso solo oggi per la prima volta. Va bene, dai, tutto chiarito. Avanti Marco. No, ti rispondo che non ho ripreso Marco, poi vi lascio i corrigi. No, quello può funzionare sia da microfono preamplificato che non. E quello è l'interruttore per disinserire e inserire il circuito di preamplificazione. Quando tu le metti la batteria, serve solo, la sede della batteria serve solo per far usare, per meglio dire, l'MC60 con una radio che non ha l'alimentazione. Ok? Quindi puoi usare l'MC60 con le batterie anche con una radio col connettore a 4 che non ti può dare gli 8 volts per alimentare. Ok? Sì, ho capito benissimo. Allora, un'altra domanda ancora, visto che ci siamo. Allora, se io dovessi per dire utilizzare l'interruttore sotto, come ho fatto poc'anzi, allora potrei anche aumentare il macchiglia, oppure non influisce in quello, nel senso, perché quello è esclusivamente solo per l'amplificazione, ma non gli dà il volume se io aumento il mic gain, voglio dire, nel senso che non è che vado a strappare se aumento il mic gain, però commutando quell'interruttore. No, tu quell'interruttore lo metti a zero e puoi aumentare il mic gain fino a quando appunto è regolato, però stai usando il microfono normale da tavolo perché stai disinserendo la preamplificazione. Io ho l'MC50 che è uguale all'MC60, è un semplice microfono da tavolo uguale all'MC50 senza amplificazione, normale, un microfono dinamico che inizialmente nel 1972 ha fatto la Trio Kenwood, prima di passare Kenwood, ed è il microfono di linea del 780 che io ho, del DS MC780. Ok, la stessa cosa hanno fatto l'MC60 inserendole quelle interruttore così chiamato, perché non è un potenziometro, è un interruttore vero e proprio, che inserisce e disinserisce il circuito di preamplificazione dall'MC60, facendolo diventare normale, senza preamplificazione. A quel punto tu devi decidere se sollevare il mic gain e portartelo ad un livello che piace a te, senza però inserire la preamplificazione, perché se inserisci la preamplificazione del 60 dovrai andare ad abbassare nuovamente il mic gain come sai fare. È appunto quello che ho chiesto, sì, ti sei spiegato bene, va bene, dai. Adesso ne so qualcosa di più di questa radio qua. Ok, avanti Natalino. Giulio, come mi sta ascoltando di radio? Migliorato? Benissimo Natali, va benissimo adesso. A proposito, guarda che poc'anzi è entrato Fabrizio, io non ero in ruota, ma ero all'ascolto, che puoi andare a ritirarti il microfono che ha fatto il cablaggio e va bene per diverse radio. Cappa, già ci siamo sentiti per telefono giù, non c'è problema. Ah vabbè, no, perché lui ha lasciato il QTC, ha lasciato, ma io non ero in frequenza, ma ero all'ascolto, siccome poc'anzi non so chi c'era, forse c'era Luca, boh, non lo so, non me lo ricordo nemmeno, che appunto ha recepito questo messaggio, per cui te l'ho voluto dire, visto che ancora nessuno te l'aveva detto. Va bene, vai Robert. Ok, vediamo se nel frattempo è rientrato qualcuno, così facciamo un riepilogo. Attenzione 10, chi vuole entrare, se no a chi tocca. Buonasera, dai, buonasera a Claudio, buonasera a Giulia, buonasera anche a Natalino. Che altro c'è questa frequenza? Ci siamo in quattro, io, Claudio, Roberto, Natalino, vai anche chi vuoi, Franco, ciao. Ciao Giulio, ciao anche Claudio. È entrato Marco e Fabio mi sembra. Vai Claudio. Io poc'anzi ho sentito, ciao Franco, ho sentito a Fabio e Marco che siamo rientrati, vediamo un po' se c'è qualcuno di loro. No, evidentemente si sono rispostati dove erano, non lo so, ciao Franco, buonasera. Sì Giulio, sono dei microfoni che io uso dal 1987, fate il conto, quindi li conosco molto bene. Io ho riparato tantissimi perché a volte quando c'hai il microfono MC60 in amplificazione, a volte viene a mancare l'amplificazione ed è proprio quel tastino che ti consiglio ogni tanto di muoverlo, di muoverlo, che si inceppa e non permette al microfono di uscire bene dal radio, capito? Quindi va sempre ogni tanto mosso quell'interruttore, eccetera. Vabbè, comunque abbiamo capito il funzionamento. Io l'ho provato anche libero, ma per me non cambia niente, Roberto. Se io ti tolgo l'MC60 dal piantone, lo metto diretto col processore inserito, io, per me la radio non cambia, assolutamente. Riprendi. Fare il mio è un'edizione diversa, magari con l'interruttore ce l'ha sotto all'interno quando metto il tappo, non lo so, dai, tanto in ogni caso lo direi di tenere sempre inserito con l'amplificazione, se no non hai nessun motivo di utilizzare un MC60. Il 50 hanno la stessa capsula del 60, cambia solo che uno è amplificato e l'altro no, così, confermi? Sì, stesso microfono, il 50 è uguale, solo che viene appunto il circuito di preamplificazione, non c'è, attenzione che si può preamplificare, si può mettere il circuito interno, Fabrizio ne ha lavorato uno e l'ha modificato, esce molto molto bene, praticamente l'ha fatto diventare come l'MC60, uguale, preciso, identico, non cambia assolutamente niente. Metti il circuito di preamplificazione all'interno, spazio ce n'è quanto ne vuoi, da inserire, disinserire, come vuoi. Avevo visto anche il progettino e le foto di come l'aveva fatto Fabrizio. Io ce l'ho normale perché l'ho preso col 780, capito? Ed è normale, ed è un microfono normale, che praticamente io uso col DAC, col DAC e con lo spezzone, da 4 a 8, perché anche quello è a 8. Ed è perfetto, l'avete già sentito, MC50 con l'arte, quindi va benissimo. Sì, sì, funziona bene, bella, bella piena la voce. Ciao Franco, ben sentito, riprendete il mic. Franco, sparito, bubu. Sì, infatti ieri ti volevo dire, ero qua, quel 50 così col DAC, quando era 8 era perfetto, poi lo potevi mettere anche a 10 ed era perfettissimo ugualmente, per cui le prove che sono state fatte ieri, e poi te l'ho già detto, non te lo ripeto, tu puoi prendere anche un corno di bue, grande, piccolo, lungo, corto, come ti pare ti piace, ma tua voce va sempre bene, ok? Ci conferma, vabbè. Madre natura mi ha dato questa voce, questa timbrica, queste corde vocali così grosse, quindi va bene così, no? Io sono sempre con l'80, di 60 sono a fianco, ne ho 4 io di 60, 4 MC60, 2 SM20 e l'MC50, l'MC50, l'MC80, l'MC85. Tutti quelli ogni tanto li uso, però per voi non cambia niente perché la modulazione è sempre quella. Va bene, vediamo se Franco è rientrato o se lo riprendi tu. Non è rientrato, c'era anche Luca o sbaglio poco fa? Luca ci sei? Nuda. Marco, come si chiama? Condor ci sei? Ehi, in ascolto, dai, sto facendo roba. Buona serata a tutti. Sempre vende roba. Tu sei come Luca, sempre costruendo e facendo. È un grande Marco. Avanti Natali. Un po' comune questo Marco Condo. Ma ciao Marco, io ti ho rilanciato poco fa, non hai ripreso. Potevi anche rispondere, va bene, non ci sono problemi. Stavo dicendo Natalino, ma ti ha fatto, quindi te l'ha sistemato per quella radio, quel microfono, MB+4. Va bene adesso? No, c'era, me l'ha aggiustato perché c'era un qualcosa che si era rotto e adesso funziona. Non lo so che spinotto ha messo, non ci sono andato a ritirare perché ho la macchina lontano e mi tocca pigliare un curva andare a pigliarmi la macchina. Un altro momento vado e me lo prendo. Vabbè, ma ti ripeto, le connessioni che ti ha messo, ah non lo sai se ti ha messo la connessione per quella radio lì, vabbè, comunque, se te l'ho riparato sicuramente già funziona, non ti preoccupare. Va bene, io il mio me l'ho riparato da poco, però dico riparato, non capivo perché non funzionasse con la batteria nuova e col tester mi sono accorto che c'era interrotto proprio l'alimentazione alla batteria, dalla batteria al circuito stampato. L'ho fatto nuovo e ha ripreso a funzionare, anzi lo devo mettere in funzione anche col baracchino perché voglio vedere se sta andando tutto bene. Avanti Giulio. Ok, sì. Va bene così, dai, siamo d'accordo. Comunque Natali, finalmente ragazzi, ti sentiamo con una radio discreta, non come quella che con quel microfono era proprio pessima, ma pessima veramente, anzi alle volte non ti sentivo nemmeno, nonostante che Santiago non prende la Bibi, perché considerando dove sei e l'antenna nella posizione in cui è, Santiago 9 non è poco, mi da me. Io ritengo che sia un buon segnale, ma adesso è anche una buona radio e sono contento per te. Vabbè, vai Robè. Natali, una cosa, una cortesia. E dimmi Robè. Quando stato più vicino a te, perché io da Luca a me viene male, scende, c'è tutto dall'altra parte e poi viene male. Se ti capita quando stai andando da Fabrizio, se passi da Luca ti dà un alimentatore e me lo passi in officina, tanto tu prendi via l'auto per andare da Fabrizio. Sì, dai, se perché ha detto se è in giro me lo passa lui. Quindi non lo so se devo uscire, capito? Vabbè, se ti dovesse capitare, sennò sono da 2 settimane che devo andare a prendere questo micro, mi sono amico con questo alimentatore che mi ha saldato un filo, era di mio nipote, gli ho dato delle cose, e tu mi hai dato che ci sei, se c'è tempo, io tempo non avevo, se mi saldava un coso, uno spinotto di alimentazione, me l'ha risolto lui, il problema è che di mio nipote, e così non mi rompe le scatole a me a chiedergli ogni volta l'alimentatore, questo è del computer della diagnosi, lui ogni volta devo dare il mio. Purtroppo, se ti capita, se no quando ci faccio io di zona me lo faccio dare io. Cappala. Ok, no problem. Ok, ma dai, chi c'era ancora? Marco, sei in ascolto o stai facendo? Io sto facendo roba, dai, sto andando da una camera all'altra, eccetera. Scusa, Clap, ma appunto era in movimento, non sono seduto costantemente, dai. Già riprendo più tardi se riesco. Ciao a tutti. Ciao Marco, allora dai. No, vabbè, non lo sapevo, pensavo che stavi facendo altro, dai. Ok, ci sentiamo magari più tardi. Avanti, Franco California, ci sei. Non riesci a comprendere in tre di venandere così, cazzo, vai lì. Faremo giocando a pipì a cuacca. Avanti, Giulio. Ok, qua. vabbè, la putidine. Sì, sì. Comunque Marco, si vede che si sta sbizzarrendo stasera, perché mi ha arrivato con un bel segnale, come solitamente non arriva. Va bene, dai, meglio così. Anche lui sta facendo il monello, il monello. Allora, vabbè, hai sentito l'antenna autocostruita che è efficiente anche verso Bolzano, eh? Praticamente lo stesso segnale che sei arrivato tu, mi ha dato anche a me. 5-8, 5-8. Avanti, Robè. Sì, no, non mi dubitavo, sicuramente già sei pratico di coso. Guardate che tu rispetti le misure e fa le cose che non deve essere fatto. Già va bene. Anche cosa le sta facendo, l'ho sentito, Luca Flipper le sta facendo, anche lui di quelle altre. Sì, lui le sta facendo da anni. Sì, lo so. No, io lo ripeto, avevo preso le misure esatte dalla originale, che poi tra l'altro tra qualche giorno ce l'avrò di nuovo. E dunque avevo rispettato quelle misure, è andata bene, sono stato fortunato, sono stato quello che vuoi, so solo che va bene, e non è la prima volta, anche la volta scorsa, ti ricordi, avevamo fatto collegamenti insieme, sempre, e tra l'altro c'era anche Gianni Lubrefetta, e dunque tutto bene, va bene, dai, facciamo girare per Natalino, vai Natalino, sbizzarrisciti tu. C'è poco da sbizzarrirmi un vice a radio, ma poco davvero però. Quanto basta per farti sentire, non ti preoccupare, anda a me. Vai, ecco qua. Beh, pone la capatella, la tariffa è qualcosa, spostala, magari anche spostandola esci meglio. Una cosa voi pretendete una radio del genere, va bene, stretto sui 9 più 20, qua adesso la radio è buona, è chiara, forte, meglio di prima, forse è meglio di me, non devo insegnare niente, per andare meglio ci vuole una radio superiore, ma per peggio e peggio va bene così, a futtidini, stai andando benissimo, alla grande, non ti preoccupare, vai Roberto. Sì, a voi, alla fine poi quando metti il microfono troppo forte ci dà fastidio, diciamo basta, Natalia, basta, rimane così, già va bene, ce n'è anche quando più 20, va benissimo, non c'è problema, considerando dove sei messo, stai andando più che alla grande. C'era poco fa Claudio Di Muros, quando eravamo con quelli di Bolzano, Giulio, che fine ha fatto? Non c'è più, noi ci siamo dimenticati. Avanti Claudio, eravamo su quell'altro canale, che canale era? Ma come la metto, giù, che numero è? No, era proprio sempre su 10, ma in FM. Ma io non lo sentivo, Claudio Di Muro, io non lo sentivo, tu sai, qui praticamente ci sono dei giorni che posso sentire, anche se basso riesco a capire quello che dice, ma ci sono dei giorni che è proprio zero completo, non è sempre che arrivo qua, dipende dal QRM che c'è, dunque, va bene, dai, facciamo girare ancora, avanti Natali, tocca il tuo turno. Ho detto non posso sbizzarrirmi perché qua con questa radio non ti puoi sbizzarrire praticamente, purtroppo mi devo accontentare. Roba che non posso mettere un'altra radio, diciamo così, devo tenere questa e buh, perché è omologata. Sì, Natalia, ma mettendo un microfono nuovo, o meglio aggiustando il microfono, diciamo che hai fatto contento anche noi, perché almeno ti sentiamo chiaro, è quello che importa. Poi per il resto non ha importanza, il segnale lascia il tempo che trova, ma la radio almeno se non altro è comprensibilissima, per cui problemi non ce ne sono. A meno che non arrivi il QRM qui da me oltre il 9, ma in quel caso lì è quasi difficile, no? Soprattutto dove abito io, che sono all'interno, la 131 è dall'altra parte, dunque il traffico non mi dovrebbe dar fastidio per quanto riguarda le interferenze, eccetera. Sono all'interno, abbastanza all'interno, per cui il problema non ce n'è. Vai Claudio. Sì, sento un attimo di bianco, ma Talima l'ha saltato tu, sì, non tocca nulla, va bene, non ci sono problemi, ottimo per la truppa, chi c'è quello? Va bene, va bene. Perché Marco, cos'è che stai facendo? Ti stai sbizzarrendo, cosa devi fare? Ci devi far spaventare, cosa stai combinando? Oh Cla, sai cos'è? Siccome sono con un rosmetro che definire giocattolo è poco, sto facendo l'ultimo tentativo di trovare quel famoso rosmetro colatore wattmetro dell'MFG che avevo io. Quello era sulle 150 euro. Questo è scomparso in casa, ho provato più volte, più riprese, guarda, ho guardato tutto il guardabile, non si trova, non esiste questo. E siccome appunto c'ho quel rosmetro ridicolo, io ne voglio uno serio, cioè inutile averne vari ZG e non serve, non ne serve uno. Mi volevo pigliare il Daiwa CN801. Almeno le stazionarie le segna reali, i watt me ne frega poco, più che altro che segni bene le stazionarie, perché è uno scandalo che ci abbia cioè vari affari buono. Vai Claudio. Aspetta che mi sono messo gli occhiali, ho visto 10 più per i 9.30, sì, 9.40 pieno, era bravo. Aspetta, c'è isso. Scusate, è ancora attaccato da quando ho provato a chiamare quello di Bolzano. Se tu vedi il baracchino che sto usando è una cacca, una cacchina, eppure funziona, aspetta, a bozza. Ecco, nudo e crudo. Questo, addirittura il display di questo baracchino è un francobollo, c'ha la dimensione di un francobollo. Vedi solo i canali e il modo di emissione. Questo vai da 9 più 30 a 9 più 40. Allucinante, è tanto, vabbè, no, ma siccome ho messo gli occhiali per vedere se l'ho regolato bene, io, se non è mai possibile che non mi si muovano le stazionarie, io sono contentissimo, questa antenna è montata alla Marlon Brando, non al culo di scimmia, va bene, e ho visto i 40, gli ho detto, ma cosa stai combinando? 9 più 40 eri, poi hai staccato, sei andato a più 30. Guarda che è Gianfranco, glielo dici quando lo senti, se vuoi ti do anche il numero di telefono. Io qua di Gianfranco in vendita ho due rosmetri, di cui uno è già venduto, ok, lo devo dare, l'altro è della Revex, ok, è molto meglio della Daiwa, Revex, che fa VHF, UHF e HF030, addirittura dietro c'è la sonda della Kenwood attaccata, che costa una barca di soldi. Io ho provato, ti dà i decibel di segnale, sai cosa vuol dire? Che se un rosmetro normale hai 1,1 di stazionaria, 1, lui ti segna anche i millesimi di quell'1,1, di quanto è preciso, una cosa strepitosa. I watti poi non ne parliamo, corrisponde ai watti, proprio alla lancetta dei watti in misura, proprio muovendo piano piano il potenziometro, lavora allo stesso livello dello strumento del 440, uguale, preciso, identico. Ecco perché io ho detto che lo strumento esterno c'ho solo la T230, che fa un po' da tutto, commutatore a tre vie, accordatore, rosmetro e wattmetro di linea, ma è così preciso il mio strumento che è regolato proprio con quella sonda, è perfetto, lo sta dando 50 euro, se vuoi ti do la sigla, controlla quanto costa quel rosmetro, non è grande, non è ingombrante, è nero, bellissimo, ed è della Revex, professionale, con la sonda attaccata. Eia. Insomma, comunque vi siete accorti subito di quando faccio Monello, così io manco me ne do, siccome qua è tutto sotto, non vedo io, non vedo l'alimentatore, non vedo la scarpetta, credo di averla già attaccata, perché sennò con il Bolzano, col cacchio che mi avrebbe sentito oltre 4, e gli arrivava 8, il massimo era 8. poi c'era molto quel sebbia nel segnale, quindi c'è un calato di brutto. Ok, dai, fate girare, che sto cercando qua. Va bene, guarda quello della Reflex, se ti interessa, me lo dici, chiamo Gianfranco, se lo vuoi, vieni e te lo prendi, se no te lo porto. Avanti Giulio. Ok. Sì, Marco, te l'avevo detto inizialmente che stavi facendo il monello, no? Forse non mi avevi capito, ma perché qua mi stavi arrivando il 9 più 15, adesso mi stai arrivando il 9 più 5, per cui la differenza l'ho notata e come l'ho notata. Vabbè, ma sapevo che tu avevi quella possibilità di fare questa differenza di segnale, per cui non è un problema. Dammi questa sigla che lo voglio vedere dal computer, fai la cortesia di questo strumento. Sì, aspetta che dentro l'armadio riprendi intanto Roberto. Ma io non ero d'accordo che aveva 9.40, ma pensavo che lo sapesse. Vabbè, sai che con l'uomo di Bolzano per un paio di passaggi mi ha fatto anche 9.50, va bene, l'FM sono segnaluni, ma per dire, no, c'era poi quel SB, magari scendeva anche a 2-3, però saliva immediatamente anche a 9.50, è salito per un paio di volte, se no di solito si era quasi stabilizzato intorno ai 9.20, 9.15, 9.20. Cazzo, mi sono anche sbagliato, quasi quasi me lo tengo. Allora è il Revex. Ok, Revex. Romeo Echo Victor Echo X-Ray Revex. Modello Whisky, quindi W570, e fa da 1.6 a 1300 MHz. Guardate che una cosa spettacolare, alla sonda della Revex dietro, alla sonda della Revex dietro, andate a guardarvela, che è l'S4012, ok? Ripeto, alla sonda attaccata dietro, di alta precisione, connettori N, che si chiama S-Revex, S-Sonda 4012. Questo strumento è uno strumento professionale che Gianfranco sta dando a 50 euro. W570, 1.6, 1300 MHz. Ok, grazie, che me lo guardo dopo, così vediamo la curiosità di questo strumento, ma me l'hai già descritto, per cui mi posso sicuramente fidare, però la curiosità di vederlo così, va bene, dai, facciamo girare. Natali, dai, sei un po' in parcheggio, canta che è bella voce. Stavo guardando quel rosso, però. Dopo te lo guardi, no? E poi te lo guardi, non hai tempo, adesso parla con lui, dopo te lo guardi. Se vuoi un rosso che costi poco, SX200, e per noi va bene, per la banda CB va più che bene. E poi per il resto, naturalmente, ci sono quello che vuoi tu, 801 costa un po' di più, costa, non dico il doppio, ma quasi. Vai Natali. Non lo voglio io, non l'801, lo vuole Marco, quello della Daiwa. Glielo volevo dare io ce l'ho quell'accordatore che sta cercando lui. Glielo volevo dare io e non ha accettato, costa non 150, ma 218, quell'accordatore che ho io. Non ha niente a che fare quello della Daiwa con questo della Revex, a futtidini Natali e Marco. Ho un po' di esperienza soprattutto sulla strumentazione amatoriale, questo è un signor strumento, guarda Giulio, ti ho mandato la foto. Claudio, grazie, adesso me la guardo. Ok, sì, già sono senza aprirlo, così è già bello, solo a vederlo in piccolino, adesso lo allargo così lo vedo meglio. Riprendilo, beh. Oh, no, Giulio, ma tu la turbo sai ancora? Sì, l'ho appena montata l'altro giorno, avanti, due o tre giorni fa, avevo lo stivo sempre intero ed era sdraiato nel poggiolo della mansarda, no? Che era abbastanza lungo. L'ho tolto così, tanto non sapevo cosa fare, e l'ho smontato, adesso l'ho racimolato, l'ho messo tutto insieme, sì, ce l'ho sempre, nuova, pensavo di avere difficoltà a smontarla, invece no, l'ho smontata abbastanza facilmente, o robe. Ma che c'era, Sergio, il padre del Riccardo, ne stava cercando una a 5 ottavi, se c'è qualcuno che la vende, tu non la vendi? La... No, io cosa ne ricavo, non mi interessa venderla, me la tengo, non si può mai dire, sai, perché questa canna da pesca può durare a lungo, ma può anche rompersi subito, in caso contrario ce l'ho sempre per sostituirla immediatamente, prima che, vabbè che ne ho anche un'altra già costruita, per cui no, me la tengo. Buonasera a tutti. Avanti, che? Danilo. Ah, ciao Dani, ben sentito, compagnia mia, di Giulio, Natalino, Claudio, e boh, chi c'era poi? Altri mi sto dimenticando giù. Natalino, Claudio, io e tu, basta, vabbè, Franco non è entrato, cioè è entrato e poi è sparito, non l'abbiamo visto. Ciao Danilo, quasi vicino di casa, riprendi, Giulio da questa parte. Marco c'era pure. Marco, no, volevo sapere chi era quello che ieri sera mi ha detto... Ci dimentichiamo di te, vai Dani. Stavo dicendo, volevo sapere chi era quello di ieri sera che mi ha detto buttaci l'antenna. E chi è questo? Boh, non lo so io. Io no, ieri sera. No, ieri sera noi non ci siamo sentiti. Un paio di giorni fa mi sembra che ci siamo sentiti, ma non ieri sera. Comunque non sono io che ti ho detto di buttare l'antenna, avanti. L'ho sentita questa storia ieri, non mi ricordo chi c'era però ieri, ma forse ho detto come battuta, perché stavo parlando di antenne 5 ottavi tipo la Mantova. E mi sembra che tu, Danilo, hai parlato di questa Game Master, guarda, buttacela, ma forse l'ho detto come battuta, non mi ricordo chi era però. No, stavamo parlando di antenne. E alla fine gli ho detto che era un'antenna autocostruita da me. E in poche parole sono quelle come quelle che fa Luca. E mi ha detto, dimmi come ti esco io di segnale. Siccome questo smitter è tutto quanto parivati giù, a volte sale, a volte non sale, a volte rimane basso, tutto quanto parivati giù. È salito con 240 watt e mi ha detto, ah, buona cosa, ampazzira che s'antenna, oppure piglia la radio e rampazzira lo verruveccio. E chi te l'ha detto? Beh, chi è questo? Non l'hai conosciuto dalla voce? No, non l'ho conosciuto anche perché non mi ha detto il nome suo. Non posso essere io, Dani, perché intanto a me mi conosci dalla voce. No, claro, a te ti conosco più degli altri dalla voce, anche perché ti ho sentito anche in banda radioamatoriale, quindi la tua voce è impossibile dimenticarsela. Dai, no, sì, vabbè, ma io non lo stai a capire. Siamo sempre a livelli terra a terra, come ti permetti, c'è una cosa che ho costruito cercando di metterci il cuore, la voglia e tutto, tu mi dici lampade e tutto, così si può fare a titolo così di scherzo come fa Giulio una volta, lampade e tutto, però così in queste ore mi chiedi controllo, ti do un controllo, solo perché te lo rubassi, mi dici di lampade e tutto, io avrei risposto diversamente, tranquillo per il carattere che ho, qui non lo posso dire, ma l'avrei mandato a fare in quel paese. Posso intervenire, Dani? Ma io dico, un'antenna che taratta, Claudio, un'antenna, tu che sei radioamatoriale, radioamatore, un'antenna che taratta a 1.0, tu non li puoi mai dire buttaci l'antenna, o sto sbagliando? Assolutamente no, faccio intervenire Roberto, assolutamente no, c'è lavoro, c'è voglia di capire, insomma, c'è voglia di fare tante cose, quando tu costruisci un'antenna, come ha fatto Giulio, ma Giulio siccome non c'è buono a costruire antenne, ha avuto culo, capito, perché non capisce niente di antenne, però ha avuto fortuna, ha capito la piazzata e c'ha zero stazionari, così è successo a te. Ma più giù, sì, ma cosa devo sentire? Costruita allo stesso modo. modo, per cui funziona bene, era grande, e poi sono affari miei se non funziona bene o se funziona male. Sono sempre affari miei, come sono affari tuoi, allo stesso discorso. Io ti sento 9 più 20 qua, poi, e cosa vuoi che ti dia? Va bene, noi siamo vicini, per cui non è quello il problema. Fregatene, fregatene, fai l'orecchia da mercante, è meglio. Vai Natali. Aspetta che intervengo io, scusate un attimo, che ero presente io. Togliete i coltelli. Posso un attimo? Un attimo già, avanti, vabbè. Allora, il discorso era questo qua, non si fa il nome, perché non si fa il nome. Per tutto è stato detto in un modo ironico, scusa Danilo, non voglio difendere a nessuno. Il discorso, stavo parlando di segnali, ti ricordo, non era riferito alla te, non ha parte di tutto, era riferito al baracchino perché c'era lo Switzer e Avaro. Infatti ho detto sicuramente Avaro, quello Switzer, perché sta arrivando segnali di 3 e di 4. Quello che era vicino a te, tra l'altro, non si fanno mai i nomi perché è inutile. Si parlava di segnale, tu dicevi, perché tu qua stai arrivando a 9 più 15, Danilo, per cui la radio sta funzionando.